L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti al consueto riassunto dell'ultima settimana di notizie, la settimana che per noi dell'ottavo giorno è cominciata sabato scorso 30 maggio e si è conclusa ieri venerdì 5 giugno. Bisogna subito fare un'appreciazione perché questa è stata anche la settimana che ha concluso la campagna elettorale per le europee, ma in questo momento, lo sapete, sono aperte le urne, quindi noi non possiamo parlare di politica, degli ultimi colpi assestati a destra e a sinistra, delle pieghe giudiziarie che sono anche emerse in questi giorni, dei voli di Stato, delle foto finite sui giornali. Non si tratta, lo ripeto, di una nostra omissione, ma così impone il regolamento della par condicio e quindi ci adeguiamo. Le notizie però non mancano, quindi cominciamo subito a dispiegare, a stendere il nostro racconto grazie ai servizi, le interviste e i commenti che sono già andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. E allora cominciamo tornando subito a 7 giorni fa esatti, perché da poche ore sabato scorso è sfumata la trattativa di Fiat per l'acquisizione di Opel. Il governo tedesco ha detto chiaramente, ha fatto capire di preferire la proposta di Magna, ma naturalmente la vita continua anche per la Fiat, anche per la casa torinese e anche per il suo presidente Montezemolo, che sabato interviene a Trento e usa parole molto chiare durante il Festival dell'Economia. Sentiamo Marisa Mangano. Comunque sia andata a finire l'operazione Opel, credo che sia stato un fatto positivo per l'immagine dell'Italia e della Fiat. E noi avevamo un obiettivo, creare delle grandi sinergie, un progetto industriale per fare di questo gruppo il secondo più grande gruppo automobilistico del mondo. Non è un discorso di guerra tra paesi, non è un discorso di politica nel senso più sono state fatte delle scelte che si rispettano. Non penso che ci sia altro. In queste ore l'amministratore delegato della Fiat e i suoi uomini sono in America a lavorare per Chrysler, che è un progetto da far tremare i polsi visto le difficoltà. Quindi ci siamo giocati una bella partita con un progetto affascinante. Se si sono fatte altre scelte, rispettiamo le scelte. Evidentemente c'erano delle altre idee rispetto alle nostre. Come sottolineato Montezemolo, chiusa la partita dell'auto, ora la Fiat guarda avanti e la priorità nell'agenda di Torino è definire l'alleanza con Chrysler. Lunedì è infatti attesa la decisione del Tribunale per la bancarotta di New York sulla vendita degli asset buoni di Chrysler a una nuova società controllata per il 20% da Fiat. Definita l'alleanza con Detroit, si capirà poi quali potranno essere le alternative. Si guarda alle attività sudamericane di GM, a Saab, ma anche al gruppo francese Peugeot o a Tata. Il tutto per centrare l'obiettivo più volte ribadito da Sergio Marchionne di 6 milioni di vetture per sopravvivere al terremoto che ha colpito l'industria dell'auto. In realtà, a ben vedere, basta per esempio ascoltare le parole dette poi in settimana da Tremonti, la partita riguardo a Opel attorno alla casa tedesca non è del tutto chiusa, poi chissà cosa succederà nei prossimi giorni e forse nelle prossime ore. Intanto il mondo dell'auto è in subbuglio anche e direi soprattutto negli Stati Uniti, perché bisogna definire l'alleanza tra Fiat e Chrysler e poi c'è da decidere il destino di General Motors su quello che era fino a poco tempo fa il primo gruppo mondiale. Risentiamo proprio la diretta nel GR delle 19 di lunedì, la voce in studio è quella di Maria Piera Cici. Poi torneremo a parlare di Fiat e della sua avventura americana con la cronaca sempre di lunedì, firmata da Marco Ferrando. Un piano duro ma anche giusto, quello delineato per General Motors, sono le parole del presidente americano Barack Obama, lo state sentendo in sottofondo, dopo l'annuncio della bancarotta del colosso statunitense dei motori. Tutti gli attori della vicenda hanno fatto importanti sacrifici, ha detto Obama, ringraziando il governo tedesco ma anche quello canadese per il supporto alla ristrutturazione dell'azienda. Questo invece è l'amministratore delegato di General Motors, Fritz Anderson, dopo l'annuncio di bancarotta. Un giorno difficile, dice Anderson, ma molto importante per General Motors. Un momento decisivo nella nostra storia. Non poteva esserci segno migliore di una 500 in giro per Manhattan a salutare la decisione del Tribunale fallimentare americano che ieri ha dato il via libera alla cessione degli asset Chrysler alla Newco partecipata da Fiat. E così che il debutto oltreoceano della Mini del Lingotto, programmato da tempo per queste ore in concomitanza con la festa della Repubblica, assume il gusto di un antipasto di quel che potrebbe essere tra un paio d'anni la Fiat in versione americana, concentrato di motori verdi e auto sfiziose. L'integrazione dunque può procedere e anche se alcuni fondi dello Stato dell'Indiana hanno fatto ricorso contro la decisione del giudice Gonzales, la borsa ci crede. Ieri a Milano Fiat ha chiuso in rialzo di quasi 4 punti, quanto basta a dare per archiviata la rottura con Opel. Buone notizie anche dal mercato domestico. I dati sulle immatricolazioni a maggio resi noti ieri danno i marchi del Lingotto in calo di 3,5 punti. In rosso dunque, ma molto meglio della media del mercato, che ha chiuso il mese in flessione dell'8,6%. Proprio grazie al tracollo delle case francesi e tedesche, il Lingotto ritocca ancora all'insù la propria quota, ormai a un passo dalla fatidica soglia del 35%. Prima dicevamo che il discorso su Opel forse non è del tutto chiuso per la Fiat, quindi chissà, forse ci sono ancora speranze per la casa torinese. Basta peraltro ascoltare e giudicare, questo lo lasciamo naturalmente a voi, le notizie che rimbalzano giovedì da Berlino e da Roma. Le riassume questo servizio di Anna Marino. È stata una trattativa politica quella in Germania intorno ad Opel, anche per ragioni di calendario elettorale. Il voto per le europee e le politiche sarà a settembre, così la partita sembra tutt'altro che chiusa. Ci sono le parole della cancelliera tedesca Merkel, secondo la quale l'accordo con Magna per Opel non ha carattere vincolante. Ci sono i dubbi del ministro dell'economia zu Guttenberg. C'è quello che ieri ha scritto il quotidiano su Deutsche Zeitung, cioè che la Fiat si sente ingannata e raggirata dal governo tedesco e sarebbe ancora in partita, come il produttore d'auto cinese Bike. In Italia fa il punto il ministro dell'economia Giulio Tremonti. È possibile che il governo tedesco faccia una retromarcia nella partita su Opel, ma mentre nel nostro paese Fiat non ha chiesto al governo, il governo non poteva intervenire, ora starà a vedere. In Europa la partita della Opel è la prima volta che c'è un intervento massiccio, non solo di un governo, ma di vari governi, un intervento massiccio di salvataggio di un'industria. E mentre Berlino frena, il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, mostra perplessità sulle indicazioni arrivate dall'esecutivo tedesco. Secondo me la politica dovrebbe valutare la bontà dei piani industriali e non dovrebbe invece far valere logiche elettorali o logiche di rapporti tra stati per altri motivi legati al gas o all'energia. In questa girandola, a volte anche impazzita, di trattative ad alti livelli, sia politici che industriali, non possiamo però trascurare gli operai delle fabbriche Fiat in Italia, nel nostro paese. Sentite questo racconto che fa per Radio 24, direttamente da Melfi, Gennaro Grinolizzi. Cancelli di nuovo aperti da questa mattina alla Fiat di Melfi. Con la mediazione di Confindustria Basilicata, sindacati e consorzio ACM hanno raggiunto un'intesa per il rinnovo del contratto, scaduto a metà maggio, di 13 lavoratori interinali della Magneti Marelli, che verranno assunti in altre aziende dell'indotto. I sindacati hanno accettato con riserva e ne discuteranno per l'intera giornata con i lavoratori. Il mancato rinnovo ha provocato uno sciopero in due aziende dell'indotto, durato quasi una settimana, provocando la sospensione della produzione nello stabilimento Fiat ed il senza lavoro per 5.000 operai. L'intesa raggiunta prevede anche il recupero della mancata produzione di ben 8.000 grandi punto, verificatasi a causa dello sciopero. Dunque, se dobbiamo credere che la partita su Opel è ancora aperta per quel che riguarda la Fiat, basta riferire, ripetere, ricordare le parole che ieri ha pronunciato Marchionne, l'amministratore delegato della Casa di Torino. Parole chiarissime, il nostro interesse per Opel rimane. Quindi a questo punto non ci resta che vedere come andrà a finire questa storia. Spesso e volentieri, quando arriviamo alla giornata di domenica, ci tocca parlare di sport. In realtà lo facciamo con molto piacere e lo dobbiamo soprattutto fare anche questa volta, perché domenica 31 maggio coincide con la fine di due grandi appuntamenti per gli appassionati di sport. Da un lato infatti si chiude la Serie A di calcio e dall'altro finisce il Giro d'Italia di ciclismo. Cominciamo dal calcio e prima di tutto ridiamo la parola a Carlo Genta per il suo commento finale sull'ultima giornata di campionato. In un momento in cui i passi d'addio sono tutti così difficili, pesanti e sguaiati, vedi Nedved dopo Maldini, vi invoglio di star tutti con Carlo Ancelotti, che 10 minuti dopo aver vinto a Firenze dando al Milan la Champions dalla porta principale, in 4 parole chiude mesi di tormentone. Ci separiamo di comune accordo, tante grazie a tutti e senza rancore. Poi magari il rancore ce l'ha, ma se lo tiene in tasca. Al massimo lo dimostra sul campo. Il paracaro Ronaldinho non alza l'abbondante sedere dalla panchina. Carlo va con i suoi, concedendo semmai un omaggio a Gattuso e Nesta, pretoriani della prima ora, e si fa portare in braccio fino alla vittoria dal suo figlio prediletto, Riccardino Kakà. Così non va troppo lontano dal cuore della verità chi immagina che proprio Ronaldinho sia stato l'ultimo e definitivo nodo del contendere con la proprietà. In bocca al lupo a Leonardo, annunciato da Galliani quando ancora non era passata un'ora dai tre fischi di Rizzoli al Franchi. Per il resto tutto secondo copione, il Toro retrocede in un'ultima giornata che sarà piaciuta un sacco ai frequentatori di Luna Park. Ogni tiro una bambolina, per 42 gol, uno più finto dell'altro. Dunque cerchiamo di mettere un po' d'ordine nei verdetti di questo campionato di Serie A 2008-2009. L'Inter da tempo ha vinto lo scudetto, mentre Juventus e Milan vanno direttamente in Champions League. La Fiorentina si qualifica alla Champions ma dovrà passare per i preliminari. Invece Genoa, Roma e Lazio vanno in Europa League, la vecchia cara Coppa UEFA, mentre retrocedono in Serie B Torino, Reggina e Lecce. Dal calcio passiamo adesso al ciclismo perché domenica si chiude anche il Giro del Centenario, peraltro con un brivido finale. L'analisi è di Dario Ceccarelli. Niente ha battuto tutti, anche la sfiga, che come noto colpisce sempre i più deboli. Dennis Menchov nella cronometro di Roma ci regala un ultimo brivido cadendo sul pavé bagnato. Ma il russo, aiutato dal meccanico, risale su un'altra bici e nonostante le sbucciature arriva sul traguardo con 21 secondi in meno di Di Luca. Chapeau, Menchov è di un'altra categoria, è più completo, più solido e la rabbia che esplode come un'eruzione quando chiude la prova è solo un'umanissima voglia di rispondere a tutti gli sberleffi che si è sentito rifilare. Opportunista, uomo ombra, succhi a ruote. Invece il successo è meritatissimo in un giro del centenario che prima o poi capiremo se è stato anche un grande giro oppure un piccolo giro. Di sicuro non è stato avaro di emozioni. Torniamo a parlare di calcio perché adesso che è finito il campionato non è che l'Italia del pallone e soprattutto dei tifosi va in vacanza, anzi per noi amanti del calcio comincia forse la stagione più bella, quella del calciomercato, con la quale si può anche volare davvero alti con la fantasia. Questa è una settimana di fuochi d'artificio perché da un lato c'è Ibrahimovic, il campione dell'Inter, che si allontana sempre di più da Milano, forse, anzi sicuramente, verso Barcellona. Dall'altra parte invece Kakà si può dire ormai di fatto, di diritto, giocatore del Real Madrid. Il giorno chiave nella trattativa di Kakà che lascia il Milan è forse quella di martedì, anche se poi Berlusconi ha deciso di rinviare ogni annuncio ufficiale a dopo le elezioni. Sentiamo Giovanni Capuano. È stata una giornata frenetica, chiusa a tardissima ora con una sola certezza. Perché Kakà resti rossonero servirà questa volta ben più di un miracolo. L'accordo vale oltre 70 milioni di euro. Il Real Madrid ne ha promessi al giocatore 9 netti a stagione fino al 2014 più una parte dei diritti commerciali. Cifre alle quali la società di Via Turati non sembra disposta a competere. La conferma dallo stesso Berlusconi che parlando a un tifoso ai margini di un comizio ha ammesso tutte le difficoltà a trattenere il brasiliano. Le prime voci si erano diffuse nel pomeriggio, il blitz di Galliani a Madrid, inutilmente smentito, poi in serata il rilancio del Chelsea fino a 80 milioni di euro, una mossa stimolata da Carlo Ancelotti, l'inizio di un'asta che però non ha fatto alzare i protagonisti dal tavolo delle trattative. Qualche minuto prima di mezzanotte la conferma che tra club e giocatore l'accordo è stato raggiunto, l'annuncio, secondo quanto raccontato dai giornali, toccherà al Milan. Kakà, in ritiro con la nazionale, ha scelto per ora la strada del silenzio. Fino adesso abbiamo parlato di calcio e di ciclismo, ma poi c'è anche la folle Formula 1 di questo 2009 che non possiamo certo dimenticare. Domani si corre il Gran Premio di Turchia, ma intanto si parla soprattutto del Mondiale dell'anno prossimo, del 2010, che potrebbe davvero presentare delle novità incredibili. Giunge in questi giorni per esempio la notizia di un possibile ritorno addirittura del mitico marchio Brabham. Ricordate il grande Jack Brabham, pilota fondatore della scuderia e poi i mondiali vinti in anni più recenti, negli anni 80, da Nelson Piquet. Ma le novità non sono soltanto queste, mentre continua il braccio di ferro tra la Ferrari e la Federazione Internazionale dell'Auto. Il servizio firmato martedì da Patrizio Cantù. In Formula 1 continuano i fuochi artificiali. Da Londra giunge notizia che dietro un'iscrizione dello storico marchio Marcia per il Mondiale 2010 ci sarebbe un gruppo di professionisti italiani che nella massima segretezza avrebbero perfezionato l'iscrizione entro il 29 maggio, ovviamente aderendo alla regolamentazione del Budget Cup. La Marcia, la squadra cofondata tra l'altro proprio da Max Morley negli anni 70, risulta di proprietà dal 1993 di Andrew Fitton, proprietario tra l'altro della squadra di calcio Swindon Town. Nei giorni scorsi si era parlato di coinvolgimento della N Technology di Chivasso, in passato legata a Fiat e Alfa Corse per il rally e il campionato turismo, ma per ora non è confermato il legame tra queste voci. Il muro di silenzio si starebbe frantumando poiché lo staff tecnico della rinnovata società avrebbe confermato alla Cosworth la fornitura dei motori e alla X-Track quelle dei cambi. L'unica vera novità italiana per la Formula 1 2010 potrebbe essere il coinvolgimento della Dallara per la costruzione di un nuovo telaio commissionato tra i nomi nuovi che si sentono circolare. Una vera e propria Babele. Mentre un'altra novità più seria sarebbe quella riguardante Bernie Eccleston. Avrebbe fatto richiesta di un marchio registrato europeo per il Formula 1 Gran Premio di Roma con data prevista 2011. Lunedì c'è una notizia dell'ultima ora. Arriva dal Brasile un aereo dell'Air France diretto a Parigi, è scomparso dagli schermi radar. Le voci che abbiamo appena riascoltato sono quelle di Daniele Biacchessi e di Anna Migliorati nel GR delle 13 di lunedì. Nel momento in cui si accavallano le notizie sulla scomparsa dell'Airbus dell'Air France partito da Rio de Janeiro e che avrebbe dovuto atterrare a Parigi alle 11 proprio di lunedì mattina. Ora invece facciamo un salto alla mattina successiva grazie alla cronaca dal Brasile di Emiliano Guanella e da Parigi di Igor Fiati, mentre ricordiamo che i resti dell'aereo non sono ancora stati ritrovati. Nomi dati pochi alla volta, vite che vengono ricostruite nel momento più tragico con la compagnia aerea Air France che inspiegabilmente non fornisce dopo 24 ore la lista dei passeggeri. I giornali brasiliani pubblicano piccole biografie di alcune delle persone a bordo del volo AF447 inavvisato durante la traversata da Rio de Janeiro a Parigi. Un volo pieno di turisti ma anche di molti uomini d'affari, il direttore della Michelin per il Sud America, quello della compagnia ThyssenKrupp. La novità più importante è la testimonianza di un pilota della compagnia brasiliana TAM che ha percorso la rotta inversa ieri pomeriggio ed ha affermato di aver visto dalla sua cabina macchie di color arancione in un punto non meglio precisato a metà distanza tra l'arcipelago brasiliano di Fernando de Noronha e le coste senegalesi. Potrebbero essere resti in fiamma dell'aereo. Il limite delle acque territoriali brasiliane si estende per 660 km ad ovest dell'arcipelago. Nella notte un Hercules dell'aeronautica militare brasiliana ha continuato a volare con speciali radar nella speranza di captare qualcosa. Il dramma dei familiari continua da una parte e dall'altra dell'Oceano Atlantico. Ho detto loro la verità, le possibilità di trovare dei superstiti sono minime. Con queste parole Nicolas Sarkozy ha riportato il colloquio che ha avuto con i parenti dei passeggeri del volo sparito in mezzo all'Atlantico e mentre la franchezza dell'inquilino dell'Eliseo non lascia praticamente alcuna speranza, Parigi sta facendo di tutto per localizzare l'Airbus A330. Così un aereo militare è partito da Dakar per perlustrare l'area del possibile schianto insieme a una nave della Marina Transalpina. E per non lasciare nulla di intentato, la Francia ha chiesto anche aiuto agli Stati Uniti. In particolare, a Washington è stato chiesto di usare i satelliti militari per individuare l'aereo, ciò che ne resta. Intanto però le autorità francesi non si sbilanciano sulle possibili cause della tragedia e l'ipotesi accreditata da Air France, che parla di un cortocircuito causato da un fulmine, lascia più di qualche dubbio tra gli esperti. Purtroppo tra i passeggeri dell'Airbus che si è inabissato lunedì nell'Oceano Atlantico ci sono anche diversi italiani. Adriana Fracchia ci ricorda i loro nomi e le loro vite. Fra loro una bolognese, Claudia Degli Esposti, di 55 anni, responsabile del marketing editoriale della Hervet, agenzia per la valorizzazione economica dell'Emilia-Romagna. Stava rientrando dal Brasile dopo una fiera del settore tessile nella regione del Paraná. Fra i 228 passeggeri del volo, per la maggior parte francesi, brasiliani e tedeschi, anche tre altoatesini tra i 25 e i 34 anni. Si tratta di Georg Martiner, Alexander Paulic e Georg Lerker e una delegazione di politici italiani della Onlus Trentini nel mondo. Si tratta di Rino Zandonai, direttore dell'associazione, del consigliere regionale Giambattista Lenzi e di Gianni Zortea, sindaco di Canal San Bovo. Il loro viaggio era iniziato il 20 maggio scorso e in Brasile, dove operano 63 circoli della Onlus italiana, la delegazione trentina era arrivata mercoledì scorso per la consegna di una raccolta fondi, come ricorda il presidente dell'associazione Trentini nel mondo, Alberto Tafner. Rino era il direttore dell'associazione, direttore da tanti anni che quasi si identifica con l'associazione stessa. Aveva portato una cifra che avevamo raccolto attraverso i nostri circoli. Questa cifra sarebbe servita, anzi servirà ancora, per la costruzione di una scuola per i bambini. Non sono invece ancora state rese pubbliche le generalità degli altri tre dispersi italiani. Soprattutto in Francia si piangono naturalmente le vittime dell'incidente aereo, ma si discute molto anche delle cause dell'incidente stesso, che a distanza di giorni sono ancora tutto fuorché chiare. Nelle ipotesi si oscilla tra l'incidente, l'errore del pilota e persino l'attentato terroristico. Da Parigi ancora Igor Fiati nel GR delle 7 di ieri. Si moltiplicano le ipotesi sulle cause dello schianto dell'Airbus Air France e secondo l'ultima teoria l'aereo volava probabilmente a una velocità sbagliata. A scriverlo il quotidiano quotidiano Le Monde, che cita fonti vicine all'inchiesta. Stando a quanto si legge, è fortemente probabile che, a causa della velocità errata, forse troppo bassa, l'aereo si sia disintegrato in volo, e la disintegrazione in volo è sostenuta anche da fonti citate dalle Figaro, mentre dalla Spagna si fa largo l'ipotesi di una bomba. Ad avallarla ci ha pensato un pilota del vettore spagnolo Air Comet, che era in volo tra Lima e Madrid, non lontano dalla zona dell'incidente dell'Airbus Air France. Nel suo rapporto, il pilota ha scritto di aver visto un lampo forte ed intenso di luce bianca, ma dal Brasile si esclude l'esplosione dell'aereo nei cieli dell'Atlantico. Stando infatti al ministro della difesa brasiliano Nelson Jobim, il ritrovamento di chiazze di carburante esclude l'ipotesi esplosione. Sul disastro aereo nell'Atlantico ricordo soltanto le ultime notizie di ieri. Da un lato la Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per omicidi colposi contro ignoti, mentre sempre dalla Francia è partito un sottomarino nucleare per cercare di trovare in fondo all'oceano le scatole nere dell'Airbus precipitato lunedì. L'ottavo giorno. Martedì. È il 2 giugno, festa della Repubblica, una festa quasi dimenticata, ricordate, fino a una decina di anni fa, poi ripristinata da Ciampi agli onori che merita. Napolitano già lunedì in realtà parla e dice cose molto importanti proprio in occasione del 2 giugno. Sentiamo allora prima Vincenzo Miglietta e poi il commento di Stefano Folli. La ricostruzione dell'Aquila e delle tante zone colpite dal terremoto e poi la crisi economica, le riforme, l'immigrazione. È un paese, l'Italia, che per il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha tutte le carte in regola per affrontare i problemi del momento. È necessario tuttavia, secondo il Capo dello Stato, mettere da parte le contrapposizioni politiche ed istituzionali, a maggior ragione in un periodo elettorale. C'è bisogno, come ho detto e non mi stanco di ripetere, di più coesione nel Paese. Dinanzi alla crisi e alle tensioni che scuotono il mondo e dunque anche in vista dell'importante grande incontro internazionale che si terrà il mese prossimo all'Aquila e che costituirà per l'Italia un impegno e un'occasione di straordinario rilievo. Napolitano ha ricordato che il paese ha già dato recentemente esempi di unità, dalla solidarietà dimostrata per l'Abruzzo alla ritrovata unità il 25 aprile, come pure ha aggiunto il presidente della Repubblica Napolitano nel rendere omaggio alle vittime del terrorismo, delle stragi, della violenza politica di ogni colore, nel ricordare magistrati e forze dell'ordine caduti nella lotta contro la mafia. Segni questi di unità, ha detto il capo dello Stato, attorno a valori di democrazia e solidarietà della nostra Costituzione. Ma mi sembra un messaggio importante, perché è un tentativo di riallacciarsi a quel momento, parlo del 25 aprile, quando sembrò che si potesse celebrare quell'altra ricorrenza, in uno spirito appunto di coesione nazionale, un certo rispetto comune di certi valori in cui la Repubblica si riconosce. Oggi, a distanza di qualche settimana, in un momento in cui invece la politica sta dando, diciamo, pure il peggio di sé in questo scontro elettorale davvero di mediocre livello, il Presidente della Repubblica ha voluto richiamare esattamente quello spirito che, insomma, qualche settimana fa era sembrato aleggiare nel Paese e poi si è disperso. Ecco Stefano, a mia memoria una campagna elettorale in cui il livello della politica si abbassa a sotto zero, in cui le vicende personali si mischiano con cose che non hanno nessun tipo di storia, anche peraltro nel nostro paese. Che cosa è capitato alla classe politica italiana? Ma è capitato un fenomeno che probabilmente è legato anche al leaderismo, cioè a questa accentuazione forte della personalità dei leader rispetto alla struttura delle forze politiche come era fino a qualche decennio fa. Oggi esistono i leader. I leader sono giudicati globalmente nella loro dimensione pubblica e anche nella loro dimensione privata. Da questo il passo per una campagna che naturalmente tende a demolire l'avversario sul piano appunto personale più che politico, il passo è breve. Questo genere di campagne che a noi sembrano e sono così trash, così profondamente urtanti la nostra sensibilità, è qualcosa che ci viene dall'esperienza americana. Per esempio in America si usano i colpi bassi, si cerca di demolire l'avversario più che di confrontare i sul piano politici. Personale. Il momento culminante della festa della Repubblica è come sempre la parata in via dei Fori Imperiali a Roma delle Forze Armate davanti alle più alte cariche dello Stato. A seguire la cerimonia per Radio 24 c'è Elisabetta Fiorito. Ecco il suo intervento in diretta nel GR delle 13 di martedì. Buongiorno, una parata ridotta per la festa del 2 giugno. L'esercito sceglie la sobrietà per destinare risparmi ai terremotati dell'Abruzzo. Non mancano comunque i bersaglieri che suonano correndo e ci sono anche le frecce tricolori. Alle 10 arriva il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, scortato dai corazzieri a cavallo. Ci sono tutte le più alte cariche dello Stato, manca però il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Arriverà con 15 minuti di ritardo. Palazzo Chigi comunica un ritardo proprio per gli auguri in vista del 2 giugno. Visibilmente irritato Napolitano, la sfilata continua, non c'è il lancio dei paracadutisti per il maltempo. Infine il saluto delle frecce tricolori per questa 63esima festa della Repubblica. Napolitano sale al Quirinale, Berlusconi preferisce il bagno di folla fino a via del Plebiscito. In mattinata insieme Napolitano e Berlusconi erano per la deposizione della corona di fiori all'altare della patria. A chi gli urla di non mollare, Berlusconi risponde: non ci penso proprio. Ufficiale invece il messaggio del capo dello Stato: sono trascorsi 63 anni dal 2 giugno 1946, ma per Napolitano i valori divenuti principio della Costituzione sono oggi più che mai condizione e guida per la costruzione di un'Italia coesa, prospera e solidale. D'accordo sulla necessità di coesione anche il segretario del Partito Democratico Dario Franceschini. La tradizione vuole che nel giorno della festa della Repubblica, 2 giugno, vengano anche nominati i Cavalieri del Lavoro direttamente alla presenza di Napolitano. Ce ne parla Micaela Nasca. Nella lista degli imprenditori virtuosi figurano nomi illustri. C'è l'amministratore delegato dell'Enel, Fulvio Conti, e quello di Poste Italiane, Massimo Sarmi. C'è Gianfranco Carli, AD dell'azienda produttrice di olio d'oliva. I 25 Cavalieri del Lavoro, nominati dal Capo dello Stato in occasione della Festa della Repubblica, hanno esperienze e professionalità diverse, ma sono accomunati dal fatto di promuovere nelle loro aziende innovazione e internazionalizzazione. E di fronte all'eccellenza dell'imprenditorialità italiana, le donne calano il poker, ad essere insignite del riconoscimento anche quattro imprenditrici. Per Stefania Brancaccio, da 30 anni al vertice dell'azienda elettromeccanica Coelmo, questa onorificenza ha un valore particolare. Significa un po' un coronamento di una carriera, ma io vorrei che questo fosse un mezzo, perché io l'ho dedicata, questa mia onorificenza, a tutto il le silenti donne che lavorano e che con grande fatica portano avanti il problema proprio del lavoro femminile. Mercoledì. Torna in primo piano, dopo mesi di calma forse apparente e di silenzio, l'emergenza rifiuti a Napoli. Ma questa volta non si tratta di una recrudescenza del problema, che ricorderete esplose in tutta la sua violenza nella primavera e nell'estate dell'anno scorso, ma di una serie di arresti anche illustri che scattano proprio nella giornata di mercoledì. La cronaca da Napoli è di Enzo Danna. Sono 15 le ordinanze di custodia cautelare, tutte agli arresti domiciliari, eseguite nell'ambito di un'indagine sullo smaltimento dei rifiuti in Campania durante la gestione commissariale. Tra i destinatari il presidente della provincia di Benevento, Aniello Cimitile. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nei collaudi di alcuni impianti di CDR della regione, oggi convertiti in apparati per la tritovagliatura. Secondo IPM della Procura napoletana, i tecnici incaricati dei controlli, tra cui docenti universitari, avrebbero dichiarato il falso, attestando l'idoneità degli impianti già sotto sequestro e sostenendo la conformità del prodotto finale del CDR. In realtà le ecoballe realizzate non erano combustibile da rifiuti. Per tutti l'accusa è di falso. In Campania i CDR hanno prodotto per anni milioni di ecoballe non a norma che non possono essere bruciate nei termovalorizzatori. Come sempre in questi casi, quando partono gli arresti, in realtà si muove tutto un meccanismo di indagini e di interrogatori fittissimo che va aggiornato praticamente di ora in ora. E sentiamo dunque prima di tutto gli sviluppi con Raffaella Calandra nella giornata di mercoledì. Come ho avuto l'incarico? Io faccio parte di un partito. Queste parole pronunciate al telefono dal collaudatore del CDR di Caivano per i magistrati sono la conferma di un sistema. Nella campagna dell'emergenza rifiuti, scellerate logiche clientelari dettavano le nomine di chi aveva il compito di esaminare gli impianti di smaltimento. Controllori accusati occupati ora, invece, di falsi certificati di collaudo a favore della FIBE Fisia, vincitrice degli appalti. L'ultimo capitolo dell'indagine rifiuti porta agli arresti domiciliari 15 persone, compreso il presidente della provincia di Benevento, Agnello Cimitile, di centrosinistra, in qualità di ex tecnico del CDR di Casalduni. Gli altri indagati sono docenti, funzionari della regione e c'è anche il direttore del termovalorizzatore di Acerra, Giuseppe Vacca, come c'è Claudio De Biasio, ex numero uno del consorzio Caserta 4, che Bertolaso voleva con sé anche nell'organizzazione del G8. Aveva però declinato proprio mentre la procura chiedeva informazioni sul suo conto. E adesso la cronaca di giovedì con la corrispondente da Napoli, Laura Viggiano. Dopo le 15 ordinanze di custodia ai domiciliari, l'ultima eseguita dalla DIA e dalla Guardia di Finanza stamattina, sono iniziati gli interrogatori di garanzia. Incarichi clientelari per costituire le commissioni di collaudo che hanno certificato il falso attestando il buon funzionamento dei 7 impianti di CDR Campani, per intenderci quelli che hanno prodotto oltre 6 milioni di ecoballe fatte di combustibile da rifiuti non a norma. Questo è alla base del filone di inchiesta che scaturisce dalla indagine madre sulla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, per cui è in fase dibattimentale il processo che vede imputati anche il presidente della regione Bassolino e gli ex vertici di Impregilo, gruppo che ha costruito gli impianti in Campania. Si punta l'attenzione sui collaudi, dunque, ed è una questione che investe nello specifico numerose università campane, poiché delle commissioni facevano parte professori, presidi di facoltà di ingegneria ed anche l'ex rettore dell'Università del Sannio, Agnello Cimitile, attualmente presidente della provincia di Benevento, eletto nelle fila del PD. Ma dall'ordinanza si scopre anche che l'ex subcommissario Giulio Facchi, con esperienze maturate anche in Lombardia, ha svolto incarico di collaudatore e non solo, avendo semplicemente una licenza di terza media. Curiosamente, in questi giorni non c'è soltanto Napoli alle prese con le storie e i problemi legati ai rifiuti. I disagi e poi di conseguenza il malcontento della popolazione esplodono anche a Palermo. Sentiamo Massimo Di Scienza. Non hanno più i soldi per poter pagare gli stipendi alle maestranze, perché non è il problema, secondo me, di dove portarla, è il problema di come si deve prelevare, perché la gente per mangiare ha bisogno dei soldi. I cittadini di Palermo iniziano ad essere esasperati. Da 10 giorni ci sono cumuli di immondizia agli angoli delle strade, dal centro alla periferia i cassonetti sono stracolmi di rifiuti, ogni notte i roghi della spazzatura rendono l'aria irrespirabile. E l'emergenza è destinata a continuare, perché i lavoratori dell'azienda rifiuti locale Lamia continueranno anche nei prossimi giorni ad applicare in maniera rigorosa il regolamento e ad astenersi dagli straordinari notturni, causando così nuovi rallentamenti nei servizi di raccolta e pulizia. Causa della protesta il mancato rinnovo del contratto tra il comune e l'azienda, che ha debiti per 150 milioni. Per tappare i buchi di bilancio, l'amministrazione comunale puntava ad aumentare del 35% la tassa sui rifiuti, ma la delibera è stata bocciata ieri dopo un'infuocata seduta del Consiglio per l'ostruzionismo dell'opposizione di centrosinistra, che chiede che a pagare siano gli ex amministratori dell'AMIA e non i cittadini. La situazione a Palermo è grave e per certi versi persino surreale, comunque poi si comincia in settimana a raccogliere i rifiuti. Anche in queste ore si sta lavorando alacremente per cercare di tornare alla normalità, normalità che il ministro dell'Ambiente Prestigiacomo ha garantito per domani. L'ottavo giorno. Giovedì. E veniamo a quello che direi per tutti, non ci sono dubbi su questo, è il fatto della settimana, ovvero il discorso attesissimo che Obama fa al Cairo, per qualcuno già destinato ad entrare nei libri di storia. Naturalmente per questo ci vorrà del tempo e ci vorranno soprattutto poi degli effetti, dei fatti concreti alle parole bellissime che Obama pronuncia in Egitto. Tutti i dettagli in questo lungo servizio di Cristina Balotelli e poi le reazioni alle parole del presidente americano con Maria Chiara Grandis. Sono venuto qui al Cairo per cercare un nuovo inizio nei rapporti tra Stati Uniti e musulmani nel mondo, un nuovo inizio basato sul rispetto reciproco e sull'interesse reciproco. Così esordisce Barack Obama davanti a migliaia di persone nell'aula magna dell'antica università del Cairo. Assalamu alaikum. Scroscianti applausi quando lui saluta il pubblico in arabo. The Holy Quran tells us Citando più volte il Corano, Obama chiede di superare le divisioni perché rafforzano gli estremisti e i violenti e invita a concentrarsi invece su ciò che ci unisce. Il rapporto tra l'Islam e l'Occidente è fatto di secoli di coesistenza e di cooperazione, ma anche di conflitti e guerre religiose. Queste tensioni, dice Obama, sono state sfruttate da estremisti violenti. Gli attacchi dell'11 settembre 2001 hanno portato molti in America a vedere l'Islam come inevitabilmente ostile non solo verso l'Occidente ma anche nei confronti dei diritti umani. D'altra parte, anche i musulmani devono abbandonare lo stereotipo negativo che hanno dell'America, che non va percepita come un impero concentrato sui suoi interessi. Parla di Afghanistan e di Iraq, spiegando il punto di vista americano. Sappiamo, dice, che la sola presenza militare non è una soluzione. Altro motivo di tensione è il conflitto israelo-palestinese. 6 milioni di ebrei sono stati uccisi, più dell'intera popolazione di Israele di oggi. Negare questi fatti è da ignoranti. Minacciare Israele di distruzione è profondamente errato. Ma nemmeno i diritti del popolo palestinese vanno negati, perciò l'unica soluzione per le aspirazioni dei due popoli è quella di due stati che convivano in pace e sicurezza. Questa è la strada che l'America intende perseguire. Parlando poi di nucleare, altro punto di tensione, Obama cita l'Iran. Dovrebbe avere accesso al nucleare pacifico, dice, ma deve aderire al trattato di non proliferazione. E mentre parla di democrazia e libertà religiosa, citando Corano, Bibbia e Torah, alcuni studenti nel pubblico gli urlano «We love you». Qualche preoccupazione arriva dalla destra israeliana e dagli ambienti ebraici americani per le aperture all'Iran e per alcune critiche ad Israele. Qualche interrogativo è anche giunto dalle organizzazioni di musulmani americani che si chiedono se alle parole di Barack Obama seguiranno i fatti. Nel complesso, però, il discorso pronunciato al Cairo dal presidente americano è stato accolto in maniera positiva. Dall'ONU al mondo arabo all'Europa, per tutti si tratta di una svolta storica. Le reazioni dei leader mondiali si sono concentrate soprattutto intorno al punto più critico del suo discorso, la soluzione del conflitto in Medio Oriente. Per Hamas e l'autorità nazionale palestinese, i segni di cambiamento rispetto all'amministrazione Bush sono chiari. Mentre per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, le parole di Obama aprono una nuova era di riconciliazione. E grande entusiasmo è stato espresso anche dal Vaticano, per cui ora è evidente la sintonia tra Santa Sede e amministrazione americana. Ma è ancora una volta fredda la reazione dell'Iran. Senza un vero cambiamento, le parole di Obama sono inutili, ha detto l'Ayatollah Khamenei, mentre sul web un video di Osama Bin Laden diffuso ieri tornava ad invitare alla lotta contro gli infedeli. Obama si trova in Francia in questo momento per rievocare e ricordare l'anniversario dello sbarco in Normandia. Peraltro Obama si trova in Europa già da ieri. Ieri era in Germania a far visita alla Merkel. Dalla settimana prossima naturalmente sarà già al lavoro negli Stati Uniti, dove lo attendono delle bruttissime notizie. Ieri sono usciti i dati sulla disoccupazione, che è arrivata a quota 9,4%. Si tratta della soglia più alta, più drammatica da 25 anni a questa parte. Ma torniamo alla visita lampo in Germania di ieri, di venerdì, perché ha avuto una tappa davvero toccante. Ci spiega tutto Raffaella Calandra. Una rosa bianca, il volto chino e un monito: vigilare perché non succeda mai più. A passi lenti Barack Obama attraversa il campo di concentramento di Buchenwald. E qui, dove la storia del secolo breve finì nel suo buco più nero, il viaggio di pace del presidente americano tocca la tappa più simbolica, prima di arrivare su quella spiaggia della Normandia dove l'America sbarcò in soccorso della vecchia Europa. Non dimenticherò mai cosa ho visto oggi, ammette Obama, che invita l'iraniano Ahmadinejad e chiunque ancora oggi metta in dubbio l'Olocausto a visitare questo campo che 60 anni fa scioccò il prozio, che era tra i liberatori. È inutile negare la storia, dice, ma bisogna stare sempre in guardia di fronte al diffondersi di razzismo, omofobia e ogni genere di discriminazione. In questo campo trovò la morte il padre di Ali Wiesel, premio Nobel e sopravvissuto allo sterminio, che ora accompagna il presidente in questo viaggio della memoria. Insieme a loro la cancelliera tedesca, che si inchina davanti alle vittime del nazismo. Come conseguenza del nostro passato, su noi tedeschi ricade un obbligo, ricorda Angela Merkel, difendere i diritti umani. Venerdì. E adesso, per chiudere il cammino di questa nostra ultima settimana, chiudiamo con un po' di notizie economiche. Prima di tutto vediamo i dati sul PIL nell'Unione Europea. ancora un segno negativo secondo i dati diffusi mercoledì. Li riassume Anna Marino. Si tratta del calo più marcato da quando è nata la moneta unica. L'allarme è di Eurostat. Il PIL di Eurolandia del primo trimestre 2009 affonda del 2,5% rispetto all'ultimo trimestre 2008. A pesare di più, un calo di 0,5% percentuale nella spesa delle famiglie per i consumi, ma soprattutto un calo di circa il 4% degli investimenti, dell'8% dell'export, del 7% delle importazioni. Record al ribasso a cominciare dal PIL tedesco, che nei primi tre mesi dell'anno ha registrato una flessione di quasi il 4%. È andata un poco meglio per le altre economie dell'area euro. L'Italia ha limitato la flessione a un meno 2,4%, la Spagna a un meno 1,9% e la Francia a un meno 1,2%. Crollo anche su base annua. Nel primo trimestre 2009 il PIL è diminuito del 4,8% nella zona euro e del 4,5% nell'Unione 27. Anche qui la performance peggiore tra i paesi di Eurolandia è quella della Germania. E all'indomani dei dati drammatici sull'occupazione dell'Eurozona, 3 milioni di disoccupati in più in un anno, la Commissione europea presenta un piano d'azione che attende il via libera del prossimo Consiglio europeo. Il giorno successivo, quindi giovedì, alle notizie appena ascoltate con Anna Marino, si sovrappongono quelle della Banca Centrale Europea. Da Francoforte il servizio del corrispondente Beda Romano. La Banca Centrale Europea ha rivisto ieri in forte ribasso le proprie stime di crescita. Ormai per quest'anno le previsioni dell'Istituto Monetario parlano di una contrazione dell'attività economica nella zona euro del 4,6%. Riferendosi alle nuove stime della BCE, il presidente Jean-Claude Trichet ha spiegato che il ritorno della crescita ci sarà solo a metà 2010. Il risultato finale dell'anno prossimo, peraltro, è ancora incerto. Molto dipenderà dalla forza della ripresa nella seconda parte dell'anno. In questo contesto, la BCE ha mantenuto ieri il costo del denaro invariato all'1% e ha confermato l'acquisto di obbligazioni garantite sui mercati finanziari per un totale di 60 miliardi di euro, con l'obiettivo di riavviare i flussi di credito all'economia reale. Sul versante economico segnalo la critica che ieri Berlusconi ha fatto a Mario Draghi, il governatore della Banca d'Italia. Nelle sue considerazioni finali la settimana scorsa aveva parlato di 1.600.000 precari, quindi persone insomma che non erano destinate ad avere un paracadute, un ammortizzatore sociale, chiamiamolo così, in caso di perdita del lavoro. Secondo Berlusconi questi dati non sono esatti. Di politica però naturalmente parleremo molto tra 7 giorni, infatti commenteremo i risultati delle elezioni europee, le urne sono aperte in queste ore. Noi invece ci distraiamo completamente, cambiamo pagina con l'ottava notizia che ci porta a Venezia, città che Thomas Mann definiva inimitabile tra tutte. Sono giorni di grande fermento culturale grazie alla Biennale, occasione davvero unica che per Radio 24 sta seguendo l'inviata Adriana Fracchia. Questa è la sua cronaca di mercoledì. Dopo il Museo Vedova progettato da Renzo Piano, inaugurato ieri negli antichi magazzini del Sale alle Zattere che si affaccia sul canale della Giudecca, oggi grande evento alla Punta della Dogana, dove è nato il Museo Veneziano di Arte Contemporanea, voluto dal miliardario francese François Pinault, già patron di Palazzo Grassi, per ospitare la sua collezione. Una mostra intitolata Mapping the Studio, che durerà un anno e mezzo a partire da oggi e avrà come sede anche Palazzo Grassi, è il primo atto di questo museo che ha restituito alla città lagunare il complesso monumentale seicentesco della Dogana, ormai fatiscente. Difficile il lavoro di restauro conservativo fatto dall'architetto giapponese Tadao Ando, che ha avuto come leitmotiv la ricerca di un collegamento costante tra passato e futuro. Ma i riflettori, oltre che sull'inaugurazione e sulla mostra co-curata da Francesco Bonanni, erano tutti puntati sulla scultura dell'artista californiano Charles Ray, svelata oggi al pubblico e allo stesso Pinault per la prima volta. Ray, affermato artista contemporaneo, ha realizzato una scultura intitolata Il ragazzo con la rana, posta proprio di fronte a San Marco e che cambierà il panorama di Venezia e troneggerà da oggi su Punta della Dogana. Per il sindaco Cacciari è un'opera ironica che forse farà discutere, eventualità che però non sembra dispiacergli affatto. Si chiude qui questa puntata dell'ottavo giorno, ricordo la mail per chi ci vuole scrivere, ottavogiorno@radio24.it. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 10 oppure in replica alle 23.